Me vede con canta guai, ega se non c'è la musica non c'è divertimento. Me vede con penso poi, me vede con canta guai, ega forse la passione che me lega sto momento, come lo cuore, come l'amore che la te faccio sentire speciale. Non c'è mancubazione, spesso sempre ti metti a guardare che la passione è un sentimento che ci diventa l'animo, ma se no ti spinge il da prima poi a lasciare. Me vede con penso, me vede con canta guai, ega se non c'è la musica non c'è divertimento. Me vede con penso poi, me vede con canta guai, ega forse la passione che me lega sto momento, come la musica, musica, musica, musica, musica, musica, la regola l'anima e la senti sempre cauta, come la musica, musica, musica, musica, musica, musica, tendizia una brutta piega in c'è una giornata, contento me la canto a guai, contento me la sento a dai, e libero che momento in c'è di mie, e il da che io sento sempre, ma faccio non me fermo, ma in chiana tu fervore, in c'è l'anima la sento, poi in chiana in c'è di mie, e il da che me faccio, scrivo quattro rime, senza culle penso e l'ugore che le scrive. Ehi, che mi illumina da lontano, che mi faccio più cristiano, quando mi sento tu fervore, che non ti spiego con le parole, quando sento in c'è l'aria, che non c'è notizie buone, specialmente se parliamo della disoccupazione, che coinvolge ogni bagnone, che non sape ad uscire, se pensano domani, che non sape l'avvenire, allora senti sta musica, che per me è buona, mi dai una carica di fondo da notizia buona, allora senti che dona, stasera se suona, alza il volume e fane sempre cupola, cupola lontano, asulta una cantina pura rusta mustamo, allora senti cadona, la gira se suona, alza il volume e fane sempre cupola, cupola lontano, questo se sente lontano, asulta una cantina pura rusta mustamo. A qua ne trovamo col vero Lupino e lo Graziano, capuro che se che le problemi cercamo sempre li risolvimo, con cantiamo quello che sentimo perché veramente ci credimo. A qua mi piace, a qua mi dice, a qua se sente, sente sempre, a qua mi piace, a qua mi dice, a qua se sente. Me vede con penso voi, me vede con canta guai, e che se non c'è la musica non c'è divertimento. Me vede con penso voi, me vede con canta guai, e che forse la passione che me lega sto momento, come la musica, musica, musica, musica, musica, musica, la regra l'anima e la senti sempre cauta, come la musica, musica, musica, musica, musica, musica, l'indizio una brutta piega in c'è una giornata. Musica a guai, io quanto mi piace ancora voi, musica a guai, come le parole che mi fanno pensare, sempre amare, sempre unire, e sempre puoi capire, e sempre vuoi lo stile che mi faccio capire, allora senti cadona, stasera si suona, alza il volume.